A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Una sorta di New Deal per l'Europa, se rievochiamo le azioni intraprese dagli Stati Uniti dopo la grande depressione della fine degli anni 20 del Novecento, oppure quanto avvenne in Europa e in Italia negli anni della ricostruzione che seguirono il secondo conflitto mondiale. Stiamo parlando in sostanza di una robusta iniezione di investimenti pubblici per rilanciare appunto la crescita e provare a far partire il motore dello sviluppo e dell'occupazione dopo gli anni della crisi che ha investito l'Eurozona negli ultimi anni. È una strada realmente percorribile? Ora che appare chiaro che anche nel 2016 l'economia dell'Eurozona crescerà, se andrà bene, in media attorno all'1,5%. La metà della crescita degli Stati Uniti. Il piano Juncker, che dovrebbe attivare investimenti per 315 miliardi fino al 2017, stenta a produrre i suoi effetti. Quali gli ostacoli che si frappongono alla messa a punto di un robusto piano di investimenti in Europa? Ne discutiamo oggi con il professor Paolo Guerrieri, senatore del Partito Democratico e docente di economia alla Sapienza di Roma. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a voi. Nel periodo che va dall'immediato dopoguerra all'inizio degli anni 60 del Novecento, il settore agricolo crolla in rapporto al PIL in Italia dal 42 al 13%, mentre la quota dell'industria sale dal 33 al 41%. Contribuì in modo determinante a tale balzo l'andamento degli investimenti fissi lordi. Da una quota del PIL che si escludono le flessioni belliche si aggirava dal 1890 tra il 12 e il 17%, passano a oltre il 25% nel 1962. In termini contabili, il contributo degli investimenti alla crescita del PIL, che aveva sfiorato l'1% annuo nel periodo 1896-1908, raggiunge i 2 punti percentuali l'anno. L'incremento degli investimenti non riguarda soltanto le opere pubbliche, ma anche la capacità di attrarre investimenti privati, trainati dalle elevate prospettive di profitto e finanziati in larga misura con fondi interni. Il balzo degli investimenti negli anni 50 è sostenuto dal notevole incremento dei consumi interni, che aumentano del 5,4% l'anno tra il 1948 e il 62. I consumi di beni durevoli, quali auto, elettrodomestici e mobili, se stuplicano tra il 1948 e il 60, passando dal 2 all'8% dei consumi totali. Questo, professor Guerrieri, è quello che accadde negli anni 50 e 60. Ma veniamo a oggi. Perché non decolla una vera politica degli investimenti in Europa? Investimenti pubblici, naturalmente. Ma appunto, lei nella scheda voi ricordate questo ruolo fondamentale che gli investimenti in generale, ma poi gli investimenti pubblici, hanno avuto nella ricostruzione, nel rilancio della crescita, non solo in Italia ma in tutta Europa. Quindi l'investimento pubblico come una specie di motore della domanda aggregata, ma anche come una fonte fondamentale per, diciamo, costruire l'infrastruttura, il contesto più favorevole perché decollassero gli investimenti privati. Questo tipo di ruolo un tempo era anche sostenuto molto, chiamiamolo, dal pensiero economico, dalla teoria economica, proprio perché si viveva in un'epoca di grande rivoluzione keynesiana, la domanda che stimola la produzione. Ecco, poi è questa fase d'oro, se la vogliamo chiamare così, è venuta meno perché alla rivoluzione keynesiana si è contrapposto una controrivoluzione, ricordiamo appunto si fanno i nomi del thatcherismo, del reaganismo per mettere in risalto quest'epoca in cui proprio gli investimenti pubblici, ma direi l'intervento pubblico in generale, venne screditato a livello teorico ma a livello anche politico, perché lo si considerava un modo di sprecare risorse. E diciamo che da quella fase di contestazione poi non siamo mai usciti, questo poi è la verità, perché quella controrivoluzione, nonostante il grande, diciamo, quello che si chiama appunto la grande recessione 2008-2009, quindi il fallimento un po' di certe ricette, in realtà questo pensiero continua a dominare. Quindi io dico che una componente che ostacola oggi in Europa, ma direi un po' poi anche in altri paesi, perché gli Stati Uniti avrebbero tanto bisogno quanto l'Europa di fare investimenti e investimenti pubblici, è un fattore che ostacola, è un po' ancora un pensiero, chiamiamolo teorico, dominante, che in fondo vede nell'intervento pubblico, nelle sue varie specie, ma soprattutto anche nell'investimento, non un intervento in grado poi di stimolare la dinamica consumi privati, investimenti privati, ma in realtà un intervento che può sottrarre risorse alle potenzialità dell'investimento privato, tanto che voi avete giustamente messo in luce il piano Juncker, che per l'Europa è stato, diciamo, ed è il terreno su cui più si punta per un rilancio degli investimenti. Il piano Juncker in realtà è un piano di investimenti privati sostanzialmente, perché le risorse pubbliche che verranno messe saranno in realtà dirottate da altri programmi e poi nei fatti sono diciamo una piccolissima parte di quello che si spera di attivare. Quindi io una componente la vedo proprio in questo ancora pensiero dominante che adonta però, ecco, questo si può dire, di evidenze che invece vanno in direzione opposta, perché un po' oggi tutti gli organismi internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'OCSE, stanno pubblicando, diciamo hanno pubblicato di recente i rapporti, dei loro rapporti, proprio diciamo una serie di evidenze, ma soprattutto di suggerimenti di politica economica che vanno in direzione opposta a questa visione dominante, che in qualche modo propongono l'investimento pubblico come una possibile leva per cercare di tirare fuori l'Europa da questo sostanziale ristagno in cui è precipitata. Sì, e qui c'è il tema fondamentale che riguarda soprattutto l'Italia. Occorre dire che gli investimenti pubblici, per avere efficacia, quindi per attivare questo effetto moltiplicatore keynesiano, devono essere investimenti pubblici tra virgolette buoni, cioè non tutti gli investimenti possono produrre effetti sull'economia, professore. Questo è assolutamente vero, infatti in questi diciamo, studi che sono stati pubblicati da questi organismi internazionali c'è proprio una parte diciamo, consistente dell'analisi che mostra come gli effetti degli investimenti sono positivi ma possono diventare diciamo, trascurabili o addirittura negativi in funzione proprio della qualità ed efficienza con cui questi investimenti vengono fatti. Per cui si mette proprio in risalto questo diciamo aspetto fondamentale. Non basta investire, stanziare risorse, quindi il settore pubblico che in qualche modo pensa di intervenire, ma bisogna farlo bene e soprattutto fare in modo che gli investimenti poi raggiungano gli obiettivi prefissati, e questo sappiamo che è tutt'altro che scontato in generale, ma tanto più nel nostro paese, dove abbiamo una tradizione purtroppo che va in direzione opposta. Quindi è assolutamente vero che proprio si potrebbero dire le pratiche gestionali degli investimenti pubblici, cioè come vengono programmati, come viene allocate le risorse e come vengono realizzati, diventano determinanti. Proprio ci sono evidenze empiriche che dimostrano che l'effetto cosiddetto moltiplicativo può essere superiore all'unità, 1,5, addirittura 2 e così via nel lungo periodo, o addirittura può essere, diciamo, addirittura sotto l'unità o poco più di zero se l'investimento è fatto male o inefficiente o i suoi obiettivi sono confusi e in qualche maniera poco monitorati. A proposito di efficienza o inefficienza, naturalmente c'è una sorta di pregiudizio che continua a esserci in Europa, e devo dire abbastanza motivato, sulla capacità del nostro paese di realizzarle effettivamente poi le opere infrastrutturali. Sappiamo il tema delle grandi incompiute, insomma ne abbiamo parlato più volte anche qui a Radio 24, quindi questo è anche un aspetto da tenere ben presente quando si parla di politica di investimenti pubblici. Direi che è fondamentale, perché per rilanciare in positivo, appunto a livello anche di principi economici, come dire, le potenzialità che possono avere e hanno poi gli investimenti pubblici, in quanto, come dire, nel momento in cui il mercato si avvita su se stesso, sono un modo di dare una spinta positiva dall'esterno, questo poi ha il concetto di investimento pubblico, e quindi poterlo in qualche modo sollevare da questa specie di ciclo vizioso in cui può precipitare, questo effetto in realtà è possibile convincere anche, diciamo, i cittadini quando si dimostra che non si vogliono ripetere esperienze negative del passato, e quindi si dimostra che quegli effetti di bassa efficienza, sì, per esempio nel nostro paese, che poi sono il fatto che c'è un'influenza diciamo, politica nella selezione dei progetti, ci sono ritardi nella progettazione, nel completamento, per non parlare poi dei costi, quelli veri rispetto alle previsioni, fino, naturalmente è inutile negarlo, alle pratiche corruttive che in molti casi ha. Ecco, questo tipo di aspetti bisogna dimostrare che non solo non si ripeteranno, ma quali misure verranno messe in atto, perché in realtà l'investimento che si farà seguirà ben altre direzioni. Quindi io credo che giustamente, cioè, è un aspetto altrettanto importante quanto quello di cercare di convincere che poi avversare l'investimento pubblico di per sé è un po' un pregiudizio ideologico, chiamiamolo così, però non lo è se in realtà poi si va a vedere che cosa è successo in tante esperienze di una serie di paesi, e in cui purtroppo certamente il nostro paese è pienamente compreso. Benissimo, grazie professor Guerrieri per essere stato con noi e averci aiutato un po' a entrare meglio nel dettaglio di questo tema fondamentale della politica degli investimenti pubblici in Europa e in Italia. Buona serata. Grazie.